Nyonzo kimo sabo Leo shai batuninga Gana lingi nangali mbana ho Musa shiri lela batuninga Gaina mani kaka yogo Musa ho Shiri obogi nani balae Gaina loti Gaina poni Bobi mbana yoye Shiri bako kabwa o Musa ho Musa Lela mwe mara mi pesi Gana moni kaka yogo Musa oyo kanga nanu Mombali mbimba na komini bombaye Musa o kitoko na yanda no bateo Musa o na bombi na mutema Rafino Benda Seleja Ya Etoile du Zaïre Et puis Moussa dont on parle Elle est Lingari du Sénégal Yakadia Bamba Karayebi, Karayebi, Karayebi Mama Nikamwe kamisi mboka Kalingina para yogo Karamoni Naramoni, naramoni mama Mika na yoko tinda Monte mambo bugite Karatuni, karatuni, karatuni mama Mafoto yo pesa ndai Monte mekono bizilini Karayebi, karayebi, karayebi mama Lika mweka mwezi mboka Kaligina bala yogo Karamoni, karamoni, karamoni mama Mika na yoko tinda Mote mambo bugite Ha ha ha.